ciò che sai di me. Tanto sai contare fino a zero. Conoscersi da sempre, non sapere niente. Io non so contare su di te. Tu che eri tutto quello che volevo. Ora sei quasi inesistente, ma la colpa è solo mia. Ho perso il conto di tutti gli sbagli. Siamo frammenti di vetro in mezzo ai diamanti. Proverò a darti quello che non hai avuto dagli altri, ma resta qui il tempo di dimenticarti. Ti prego non bruciare quel che c'è. Sto fuori, non pensare troppo a me. Che non ha senso chiedersi perché. La somma dei miei sbagli diviso due fate. Non ho mai trovato le parole giuste per dirti ciò che leggi dentro la mia iride. Se chiudi gli occhi noterai che dentro di te il luogo migliore dove ho scelto di vivere. Lasciarti andare l'ultima cosa che voglio. Lascia che ogni attimo sia degno di un ricordo. Questo sembra un brutto sogno. La distanza ci farà rendere conto di chi abbiamo realmente bisogno. Mi hai conosciuto che indossavo un vestito fatto di lividi. Alla fine non siamo poi così simili. A volte mi guardo dentro e trovo solo un vuoto immenso. Ed è per questo che quando mi guardi soffri di vertigini. Ti prego non bruciare quel che c'è. Sto fuori, non pensare troppo a me. Che non ha senso chiedersi perché. La somma dei miei sbagli diviso due fate. E non andava niente, ma sembrava il paradiso. L'universo dei miei sbagli visto da vicino. E un po' ci spero ancora. Non è vero che ho deciso, perché torni sempre all'improvviso. Ti prego non bruciare quel che c'è. Sto fuori, non pensare troppo a me. Che non ha senso chiedere.